Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Melanisti? Ah, quasi quasi li tiro su, faccio di oggi compagnia. Prego! Salite! Vi porto io allo stadio! Ma voi non... non siete milanesi? No, siamo romani di Roma. Sì. Ma perché tu no? C'è pure la macchina dal Gala Roma. Se no col cazzo montavamo. Ma le sciarpe? Le sciarpe del Milan? E queste sono bottino di guerra, dell'ultimo Milan Roma a San Siro. Oh, sai quanto ci sono costate queste sciarpe a noi, sto cappelletto? Ce lo sai quanto? 3 mesi di galera a noi. Ma li bastardi milanisti, 2 dita rotte e 4 costole fratturate. Una spremuta di sangue! Ortacci loro, E come via un bustino! Paghi 2, porti via 4! Preciso! Così voi uscite di galera? Yes! Ma il destino ha voluto che ci hanno sciolto proprio oggi. Giornata della partita di ritorno Roma-Milan, e mo' andiamo a Roma. E lo è un epico episodio di un film Fratelli d'Italia, con Boldi che è milanista a vedere la partita a Roma e carica 2 romanisti che, per non essere massacrato, asseconda nel fatto anche lui sia un romanista. Finirà in maniera tragica questo viaggio. Il casello sarà costretto a inveire e aggredire i suoi stessi compagni di fede milanista, gli faranno un enorme tatuaggio col lupacchiotto, lo porteranno alla partita, cioè una cosa paradossale. Tutto perché ha dato un passaggio alle persone sbagliate. Dare i passaggi e raccogliere autostoppisti è qualcosa come appartiene ai romantici anni 70, in cui disgraziati come me giravano l'Italia con l'autostop perché c'erano pochi soldi, c'era un senso d'avventura e ti caricava chiunque, o poi quando crescendo caricavi chiunque. Gli stratagemmi, nascondere quelli più zozzi e tenerne uno pulitino, che ero sempre io a fare l'autostop, accadde anche questo. Io faccio l'autostop, i miei compagni di viaggio, che erano schifosamente ridotti, sporchi e puzzolenti, si nascondevano dietro un paracarro. Se sei in 2 con una ragazza, a me non è mai accaduto, comunque la ragazza fa l'autostop e lui con gli zaini mastodontici d'Atlante nascosto dietro il paracarro. Oggi è molto diverso, oggi esiste una forma di condivisione dei mezzi di trasporto, si chiama carpooling, si chiama in varie maniere, fa sì che però è tutto regolato da delle app, cioè come voi cercate, selezionate le vostre amicizie, i vostri contatti su Facebook, lo si fa su delle app specifiche in cui ci sono delle persone che mettono a disposizione il loro mezzo di trasporto, altre persone che mettono a disposizione la loro volontà di condividere quel mezzo di trasporto. La moneta di cambio può essere il prezzo della benzina o anche la semplice compagnia, il fatto che qualcuno ti accompagna. In particolare a Roma addirittura c'è un servizio nuovo, un servizio basato sullo scooter. Ci sono degli scooteristi sempre in giro, tracciabili attraverso l'app. Abbiamo noi una collega qua che è molto disinvolta, ogni tanto quando vuole andare da qualche parte si becca uno scooterista, se lo sceglie come piace a lei e se ne va a fare la sua passeggiata. E oltre ad avere un importante e divertente passaggio, a volte nascono anche delle storie di passione, lo stare avvinti, lo stare 2 persone come fuse in una lungo un tragitto urbano fa nascere molte più cose di quante possano nascere semplicemente avendo una autostoppista vicino. 800 24 00 24. Voi avete mai avuto l'idea di ricorrere a queste nuove forme di autostop, di condividere la vostra automobile, di caricare altre persone o di salire sull'auto di uno sconosciuto semplicemente perché l'avete contattato tramite un'app e salire su un motorino? A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Avevo chiesto poco fa di segnalarci la vostra disponibilità o la vostra esperienza di condividere mezzi di trasporto urbani ma anche extraurbani alternativi rispetto al semplice usufruire del passaggio di un amico o di fare l'autostop. Ho detto ce ne sono vari, ce ne sono molteplici, c'è il carpooling che secondo gli indicatori potrebbe risparmiare fino a 1300 euro l'anno invece di prendere la propria automobile, attraverso un'app scegliere persone con cui si vuole dividere un viaggio, una trasferta, in cambio si chiacchiera, si offre la colazione, si sta assieme. 800 24 00 24, esistono anche altre possibilità urbane di fare questo tipo di operazione. In particolare c'è una startup, qui a Roma stanno usando molto i giovani, abbiamo avuto testimonianza della nostra collega di Bergamo che fa questo tipo di operazione tutti i giorni, va in palestra usando i motorini degli altri. Ma come fa? Attraverso una app che si trova al sito scooterino.it, che è una cosa nuova perlomeno per l'Italia. Infatti il cofondatore di Scooterino, assieme a Francesco Rellini, è un giovane italo-americano, Oliver Page. Buongiorno. Buongiorno. Te lo sei inventato te, Scooterino? Sono uno dei co-founder, sì. Ecco, come ti è venuto in mente? Esiste già questa esperienza in altre parti del mondo che l'hai importata a Roma, o è una cosa che ti è venuta in mente proprio ex novo, che nessuno aveva mai pensato prima? Guarda, noi siamo i primi sul mercato in Italia e in Europa. Poi ci sono diverse variazioni di questo in Sud Asia, in Sud America, però in Europa siamo i primi. L'idea mi è venuta perché vivevo in Silicon Valley, in California, e avevo sempre la famiglia qui a Roma, e visitando la mia famiglia un giorno stavo aspettando per i mezzi, l'autobus in particolare, e dopo 30 minuti che l'autobus non passava mi sono chiesto: ma com'è possibile che vivo nella capitale di una delle città più belle del mondo, però per spostarmi... Ma ti darei suggerimenti per un'infinità di altre domande del genere, ma esatto. risparmio ai romani questo tipo di domande. Quindi hai detto: come mai devo aspettare? Che assurdo, eh? Esatto, e ho visto sempre questi scooter che passavano con solo una persona a bordo, però sono omologati per due, e mi sono chiesto: ma esiste una app o un servizio che mi permette di trovare altre persone che vanno nella mia stessa direzione? La risposta era no, e così mi è venuta l'idea, dal mio dolore aspettando per i mezzi, mi è venuta questa idea di condividere passaggi in scooter. Anche perché tu saprai, Oliver, che Roma è la città, mi sembra, più alto tasso di motorini, non so se di tutto il mondo, seconda soltanto a qualche città asiatica, se penso. Quindi è piena di motorini Roma. È pieno, pieno, pieno. Ecco, allora come nasce, come funziona l'app? L'app funziona semplicemente dove ci sono due lati della community, dove ci sta la community di scooteristi e la community di passeggeri. Gli scooteristi sono persone che, giovani professionisti, studenti, avvocati, chiunque vuole che ha lo scooter e che si sta spostando ogni giorno da una parte della città all'altra. Ecco, scusami, rispetto ai luoghi comuni, Roma è una città dove gli scooteristi sono professionisti di media-alta fascia, quindi avvocati, commercialisti, medici, impiegati, sono tutte persone che usano lo scooter. Normalmente esatto. Lo scooter si pensa che sia un mezzo di diverso tipo, tutti vanno con lo scooter, le signore, quindi c'è un pubblico molto ampio, ma anche di grande affidabilità, nel senso non sono persone che poi ti rubano qualcosa, ecco questo. No, assolutamente no, questa... La community di scooteristi sono gente molto in gamba, molto smart, che vogliono recuperare le spese della benzina, dell'assicurazione, che vogliono fare nuove amicizie, nuove potenzialità di networking pure, e condividono nella mattina un passaggio a qualcuno e nella sera quando ritornano un altro passaggio a qualcun altro. E loro una cosa, indicano il loro percorso nella città. Esatto, indicano, e poi tramite l'app vengono collegati con le persone che vanno in quella stessa direzione. Che dati dà di sé una persona? Perché la nostra collega bergamasca dice: io me li scelgo carini, me li scelgo della mia età, perché faccio anche un bel viaggio piacevole. Racconta di una sua amica, ti dico, una leggenda metropolitana, arriva lo scooterista, la ragazza l'aspettava, dice: dove devo portarti? E lei gli risponde: dove vuoi tu, perché l'aveva scelto soltanto perché gli piaceva la foto. Questa non l'ho sentita. Te la dico io, è un'indiscrezione. Sì, così. Abbiamo già avuto due storie di amore che sono nate vedi. Da... scooterino, e ci sono è veramente un modo divertente da muoversi e conoscere altra gente. Quanto costa fare un viaggio in scooterino? Guarda, ora siamo nella fase molto iniziale, però entro i 6 chilometri sempre 4 euro circa. Un modo molto economico da spostarsi in città, invece di prendere la tua macchina, prendere i car sharing, è una cosa molto divertente, veloce, su richiesta. Allora, il vantaggio di chi prende il passaggio di spendere poco, diciamo, invece che prendersi un taxi o prendere la propria auto, con 4 euro praticamente attraversa mezza Roma, una cosa del genere. Esatto. Chi invece carica la persona, che ci guadagna? Guarda, loro prendono questo rimborso spese dal passeggero. Questo è come loro prendono, ammortizzano le spese dello scooter. Ma tu che ci guadagni allora, scusa, aver fatto l'app? Noi prendiamo una booking fee, dal passeggero per utilizzare il servizio. Ah, una circa, fee? Circa, esatto, una piccola fee da 80 centesimi, un euro, dipende dalla distanza, diciamo, però è una cosa molto ragionevole. Ecco, quante persone hanno già aderito e da quanto tempo funziona? Così capiamo quanto ha preso. Noi abbiamo migliaia di utenti qui a Roma, abbiamo appena fatto la celebrazione del nostro 10.000° passaggio questa settimana. E il servizio è solo attivo da inizio ottobre 2015, da circa 7 mesi. Poi considera che adesso comincia la bella stagione e si va più in motorino. Assolutamente. Se tu hai fatto 10.000 persone quando pioveva a Roma o c'era freddo... Freddo ce n'è stato poco, ma comunque diciamo era la brutta stagione. Oggi si va molto più volentieri, sono più lunghe le giornate. Esatto. La stagione è sicuramente uno dei fattori di incentivo per far della gente usare il scooterino. Poi ci sono certe persone che si devono spostare senza essere bloccati, che anche durante la pioggia, anche durante il freddo, lo utilizzano lo stesso, perché è il modo più smart e conveniente da spostare. Allora, aspetta un attimo, Leo, abbiamo alcuni ascoltatori, vogliamo sentirli, uno in particolare, proprio parlare di servizi tipo questi. 800240024, stiamo analizzando una cosa nuova. A Roma non esisteva una cosa del genere, non esisteva in Italia. 10.000 persone nel giro di pochi mesi hanno usufruito del passaggio in scooter di persone che conoscono attraverso una community online che raggiungono attraverso un'app, si chiama Scooterino. Gianni, buongiorno. Buongiorno a voi. Ho sentito la trasmissione, come al solito io sono sempre in vettura su Radio 24, perciò mi ha fatto piacere sentire questo momento di dibattito. Io come esperienza viaggio abbastanza il mondo per lavoro e mi è capitato appunto di essere sorpreso su questo aspetto. Mi trovavo in Vietnam e alla sera stavo rientrando in hotel a piedi, sono stato affiancato da una ragazza in scooter. Sul primo momento ho pensato che si cercasse un approccio di un certo tipo. Si era illuso di aver fatto colpo. Successivamente? Ho capito che questa mi ha offerto il casco e mi ha detto: ti accompagno dove tu vuoi andare. E da lì me ne sono reso conto in hotel che ci sono migliaia di ragazze e di ragazzi in Vietnam e in Cambogia che fanno questo tipo di lavoro. Non so se ci sono delle app per trovarli e contattarli, però lungo la strada vedono un turista a piedi e loro si fermano e cambiando la valuta, nella nostra valuta, 50 centesimi ti portano per 8-10 chilometri dove tu vuoi andare nelle grandi città. E questo mi ha fatto riflettere, dico: ma porca miseria, ma perché in Italia non possiamo fare una cosa del genere con tanti giovani disoccupati? Se la legge lo permette, con le assicurazioni adeguate, è una nuova fonte di reddito per questi giovani. Ma purtroppo viviamo in un paese di lobby dove, vediamo anche oggi, i taxisti cercano di vietare qualsiasi mondo alternativo per viaggiare, diventa difficile. Ma io credo che sia una cosa molto interessante da fare. Allora, fermo un attimo. Per i giovani. Gianni, fermo un attimo. Tu allora, andando in Vietnam o in Cambogia, non ricordo bene, in Vietnam mi sembra, sei stato affiancato da una ragazza, hai capito che esisteva una maniera nuova per fluidificare i trasporti, ma allo stesso tempo per creare un'occasione di guadagno per i ragazzi. Allora, Oliver Page, che è quello che è fra i cofondatori di Scooterino.it, che ha ascoltato la tua telefonata, ti sei ispirato a questo tipo di fenomeno quando hai pensato a lanciare questa app romana? Guarda, in verità ero consapevole di questi diversi modi di, diciamo, mototaxi in Sud Asia, però la mia ispirazione vera è nata da BlaBlaCar, che ha fatto un lavoro incredibile permettendo alla gente di condividere passaggi a lunga distanza in macchina. E io volevo applicare questo stesso modello di condivisione per i tratti brevi in città, che non esisteva. Come ha detto il spettatore che in sua esperienza in Vietnam, sfortunatamente non è possibile fare un modello di mototaxi qui a Roma, e per questo motivo abbiamo creato tutta la piattaforma tecnologica e pure dal lato community sull'obiettivo di fare una condivisione vera e propria del mezzo, invece di un modo di fare guadagno e a scopo di lucro, che non vogliamo pestare i piedi ai tassisti, non vogliamo creare difficoltà. Hai già capito come funziona, hai già annusato l'area, sai, se fai il mototaxi a Roma hai poche possibilità di fare un'attività, ti bloccherebbero, esatto, subito, direbbero è impossibile. Esatto. Hai avuto storie finora su scooterino, nessuno obiettato? Come si dice in inglese, knock on wood, no, non abbiamo avuto problemi. Quindi, senti, ma perché è solo a Roma? Perché è solo a Roma? Non pensi farlo in altre città d'Italia? Assolutamente, noi siamo ancora una startup molto piccola, abbiamo solo, diciamo, 8 persone in team, però abbiamo una visione globale per scooterino, ossia di lanciarla in multiple città italiane, Roma, Milano, Torino, Bologna, e anche all'estero, in Sud Europa, che sarebbe il nostro mercato target, dove ci sta buon tempo, clima buono, è il nostro criterio, diciamo, clima buono e tanti scooter. Va bene, intanto auguri, bocca al lupo per la vostra attività. Abbiamo visto che nelle maglie delle grandi pressioni dei gruppi che tengono a mantenere le loro posizioni di privilegio o di egemonia del trasporto pubblico si stanno lentamente, per un principio che sta muovendo l'universo e che è inarrestabile secondo me, che è quello della condivisione, che parte dalle logiche della rete e poi si proietta nel mondo delle persone concrete, muovendo qualcosa. 800 24 00 24, a tra poco. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. No, sono partito così per viaggiare, per conoscere un po' che. Eh certo, fate bene. Fate bene voi giovani. Per me sarebbe tardi. E ora non mi resta altro che farla finita. Se non fosse stato peccato, peccato mortale, suicidarsi, io lo avrei già fatto da tempo. Certo, ci vorrebbe un modo che facesse sembrare la cosa casuale, accidentale. Ed io l'ho trovato. Un bel incidente d'auto. Quanta gente muore sulla strada. Uno corre perché ha fretta, poi si capovolge con la macchina, è un caso, no? Voi pensate che se ne accorgerebbe? Loro se ne accorgerebbe. Loro sempre se ne accorgono che andare via. Cioè, loro, pure io a volte faccio certe cose che dico, può essere mai, loro se ne accorgono, che guardano sempre, andate via. No? Cioè, dico, può essere mai, guardano proprio a me, che uno fa una cosa, e invece quando dopo loro stavano guardando proprio a me, uno, perché loro lo piace, sapevi sempre, andate via. Questo è un noto incidente di percorso di Troisi, ricominciò a tre, in un passaggio con una persona non propriamente in possesso di tutte le sue facoltà mentali, ma fa parte del passato. Significava salire in macchina di uno sconosciuto, caricare uno sconosciuto. Oggi con i sistemi di carpooling, di car sharing o appunto di condivisione del passaggio in motorino, in realtà le persone sono tracciate da un'app, sai esattamente la persona che ti monta, che ti carica, anche perché il contributo che dai comunque passa attraverso i gestori dell'app, quindi evidentemente non esiste questa possibilità dell'anonimato della persona, però c'è il vantaggio anche che tu puoi scegliere la persona, la scegli prima, è una scelta preventiva, la vedi se ti piace, se non ti piace, ti dà affidamento, la consideri pulita, cioè mi scrive un ascoltatore o ascoltatrice, non so perché non specifica, anche no, grazie, onde evitare le mani addosso. È chiaro che se tu accetti di prendere una persona con il motorino o accetti di salire sul motorino un'altra persona, un minimo di contatto c'è, ma chi va in scooter non si pone questo problema, se uno ha delle reticenze sul contatto fisico, allora naturalmente sceglie il passaggio a dorso di cammello, così magari non tocca l'altra persona. Sergio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Niente, io utilizzo un'applicazione da diversi anni, che BlaBlaCar, non so se posso fare il nome, ma l'ho fatto. Da diversi anni offro passaggi alle persone, anche perché mi muovo spesso per lavoro. E devo dire che fino ad oggi lo trovo un modo, uno, per passare il viaggio e diversi chilometri in compagnia, diversamente lo farei da solo. Due, anche anche per conoscere gente. Ecco, ma lei cosa, se è iscritto a una community, usa un'app, come fa a trovare passaggi o dare passaggi? Sì, c'è un'applicazione che appunto si chiama BlaBlaCar. Ah, BlaBlaCar, sì, vabbè, di quella di cui stiamo parlando, sì, la più nota. Esattamente, questa qui è, da diversi anni, se non sbaglio sono stato anche uno dei primi ad utilizzarla come datore di passaggi, e devo dire che anche lì c'è una selezione delle persone, anche se si paga, non si paga attraverso il sito, ma si paga direttamente alla persona che offre passaggio, comunque c'è una specie di controllo. Il controllo lo fanno gli altri della community attraverso i feedback. Ma esattamente come TripAdvisor per i ristoranti, è logico, dici questo qua gli puzza il fiato, non ci sale più nessuno in macchina, o i piedi o cose del genere, oppure è molesto, guida male, ha una macchina scassata. Secondo me c'è sempre una selezione, se lei va in una macchina che è stata già molto frequentata e molto, diciamo, annotata, è sicuro che una macchina pulita, revisionata, che sta a posto, che guida in maniera prudente, che la persona è amabile, è difficile avere sorprese, no? O sbaglio? È difficilissimo, bisogna certo essere un po' più scaltri nel leggere bene le persone che vogliono il passaggio, quindi magari, che ne so, una persona che si è iscritta il giorno stesso a zero feedback e ti chiede il passaggio, e là c'è anche un modo di intervistarlo attraverso dei messaggi per capire che tipo di persona è, almeno a grandi linee. Ecco, lei che feedback ha dato delle persone che lei ha caricato, per capire un po' la media delle persone che usano questi servizi? Fino ad oggi sono tutti feedback positivi, perché tutte le persone, sono fortunato probabilmente, tutte le persone che, a cui ho dato passaggio sono state molto gentili, piacevoli nella conversazione. Che percorsi ha fatto? Che percorsi ha fatto lei? Percorsi anche di 500 chilometri, che possono andare sia a sud che a nord dell'Italia, partendo appunto da Roma. Quindi trovi di tutto, trovi militari, trovi persone che hanno un appuntamento di lavoro in una città e devono andare per forza, di tutti i tipi, prevalentemente comunque militari o appartenenti alle forze dell'ordine, quindi anche gente sicura. Ah, almeno. Questo no, cioè quelli che diciamo chiedono il passaggio sono militari? Sì. Molto spesso sì, molto spesso militari e forze dell'ordine. Quindi sta tranquillo, anzi c'è anche la scorta armata qualche volta. Esatto. Quindi c'è il vantaggio. Esattamente. Senti, esattamente. È un aspetto un pochino più, diciamo, legato alla relazione, alla sorpresa. Esiste, si inanellano anche rapporti amichevoli, rapporti amorosi. Può succedere questo, che lei sappia? Rapporti amichevoli sicuramente sì, perché comunque con le persone con cui si è instaurato un certo feeling o si è trovati simpatici, perché no, rimane anche un'amicizia, e magari le stesse persone ti richiedono il passaggio senza neanche passare da BlaBlaCar, ti chiamano sul cellulare, dove sei oggi, oppure fai lo stesso tratto che abbiamo fatto l'altra volta. Relazioni non lo so, perché certo se una persona dà un passaggio con lo scopo di eventualmente avere una relazione con... Del rimorchio, diciamo, questo è chiaro. Del rimorchio. Esatto, non la vedo molto semplice, ecco. Ecco, allora questo solo per capire, volevo capire, mentre quella del motorino per alcuni ragazzi e ragazze è una speranza comunque di conoscere persone nuove, volevo capire se BlaBlaCar in sé c'era anche, come accade, che so, avventure nel mondo, guarda caso, sempre tutti single, sempre tutte zitelle, sempre tutti ex abbandonati, lasciati, lì è il cammino della speranza, è chiaro, il viaggio della speranza, volevo capire se anche BlaBlaCar era la stessa cosa. Grazie, Ida, buongiorno. Ida è caduta, allora aspettiamo di riprendere qualcun altro. Sergio è caduto, Ida è caduta. La cosa che mi domando io, mentre vi ridò il numero di telefono 0024 824 0024, mi serviva Ida perché era complementare a quello che avrei detto, vorrei capire anche nelle persone che usano questo tipo di sistema nuovo di trasporto, quanto è incentivato anche l'aspetto relazionale, non per andare a pescare nel turbine, ma quanto in fondo esista una piccola percentuale di volontà, di speranza, di illusione di allacciare anche nuovi rapporti. Walter, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Senta, io le dico la mia esperienza, che forse non è molto attinente a questo... Cioè è attinente all'argomento, ma non so fino a che punto. Io le racconto un episodio. Nel 1973 sono andato in macchina in Romania. Beh, all'inizio della città di Timișoara, che è subito di là di Belgrado, c'era un gruppetto di motorini che fermavano le macchine degli stranieri, no? E questi qua, poi ho scoperto che era uno studente universitario e col motorino si offriva di accompagnarti, per pochi soldi ovviamente, dall'altra parte della città, perché insomma per gli stranieri non è che fosse facile conoscere tutte le strade per quindi lei diciamo prima della grande caduta del muro in Romania comunque cioè quando ancora esistevano i due blocchi, quindi era un paese ancora di socialismo reale, c'era comunque questa idea che dei ragazzi accompagnavano in motorino le persone che andavano a visitare il paese. Esattamente, e questo per dirle, no, che ovviamente la necessità aguzza l'ingegno, no? Qui sentivo quello di Roma che c'è arrivato adesso con questa azienda che fa queste cose lì per necessità, ovviamente saranno stati abusivi perché immagino che non sia stato legale il tutto, ecco, però ho scoperto questa cosa, ecco, allora ho detto ma aspetta che gli racconto questa cosa. Sì, no, è interessante saperlo come dato storico-antropologico, la novità oggi che è il principio della condivisione e dell'applicazione che ti dà visibilità, si diventa una community, allora è un tentativo di persone che magari cercano in qualche maniera arrampicando sugli specchi di svoltare la loro giornata, avevano un motorino e portavano le persone in passaggio in motorino. A Roma si vedono ancora in maniera moderna, folcloristica, legata degli sponsor, i risciò, ma in paesi, ahimè, di economia diversa, il risciò è l'unica maniera che hanno delle persone che, trascinando un carretto con le loro spalle, di guadagnarsi la giornata. La novità è esattamente questa. Ci fermiamo soltanto un istante, diamo la linea, abbiamo molte telefonate in ascolto, in attesa, e quindi presto parlerete tutti. 800 24 00 24. Melog Cronache Meridiane. Mi scrive un ascoltatore, non so se lo dice seriamente o semplicemente così per fare una battuta, per esprimersi con una facezia. Ci provano pesantemente, li devi menare per difenderti. Se può darci qualche spiegazione più esatta, entriamo in merito. Un altro, gentile Nicoletti, il 45% degli italiani non usa smartphone, quindi che stiamo parlando? Che il 45% degli italiani, e non credo che la cifra sia questa esatta, abbiamo due a testa circa mi sembra, sono persone che rimangono indietro rispetto al mondo, pazienza per loro, si adeguino. Che schifo condividere un casco, specialmente in estate, Sandro da Firenze, che schifo, Dio mio, se ne fanno tante di cose schifose, entriamo in una metropolitana d'estate quando è pigiata, condividiamo molti più bacilli di quanti, poi esistono i sottocasco, esistono mille maniere per voler isolare, se questo è il problema del casco. Lo abbiamo Ida, recuperata, Ida buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. La sua esperienza? Ecco, io sono uso molto spesso BlaBlaCar come passeggera, ho avuto sempre esperienze abbastanza positive, però volevo rettificare l'affermazione di un ascoltatore precedente sulle modalità di pagamento. Una volta all'inizio si pagava direttamente il passaggio al conducente, adesso invece no, bisogna pagare prima con carte di credito, PayPal o quant'altro, si riceve un codice che si comunica poi al conducente, il quale con questo codice incassa i soldi, però i soldi ti vengono tolti comunque dal sito, dall'app prima, ecco, no, questo era un chiarimento, mi sembrava utile. Vabbè, hai spiegato il meccanismo, si paga anticipato con la carta, quanto si paga più o meno? Cioè, è il sito che quando tu metti un passaggio lo carichi su internet, in base alla cilindrata e al chilometraggio viene calcolato quello che tu spendi, cioè non si può guadagnarci, non può essere un reddito ma deve essere un contributo a spese, comunque più o meno, non so, per andare a Torino 7 euro, ecco. Mi sembra non è costa il doppio quasi l'interregionale. Oddio, con 15 euro lei va da Torino a Roma, beata lei. No, Milano. Da Milano-Torino. Ah, beh, io scusi, ero romano-centrico. Milano-Torino 7 euro. Milano-Torino 7 euro, poi anche piacevole. Qual è il limite secondo lei? Qual è la brutta sorpresa che potrebbe accadere? Sì, guardi, quello che mi è capitato, niente di grave, però la cosa su cui bisogna stare magari un po' attenti è il tipo di macchina, per non rischiare di trovarsi stipati come sardine. Certi, ad esempio, con una piccola macchina la riempiono, cioè ospitano 3-4 persone sulla macchina piccola, quindi soprattutto perché io non sono una ragazza, cioè di 50 anni mi sono trovata un po' troppo stretta, magari tutti i bagagli dietro. La situazione promiscua che lei non gradiva, ecco. Non tanto per la promiscua, mi iscrivevo proprio perché era scomodissimo, cioè stare stretti per non so ma questo non è possibile capirlo prima, saperlo prima quanta gente c'è in macchina, non lo dicono prima. C'è alcuni, infatti questa è una funzionalità carina che hanno messo da poco, alcuni mettono, perché si può fare sul proprio annuncio, il fatto che non caricano più per esempio di 3 persone su un certo tipo di macchina e quindi si viaggia più tranquilli. Grazie Cristina, buongiorno. Buongiorno. Io ho fatto un bla bla car che mi è piaciuto moltissimo. Dovevo andare a Ginevra partendo dalla provincia di Bologna e ho trovato per caso questa partenza da Modena. Sono arrivata puntuale con bagaglio, mi era stato detto di non portare un grande bagaglio, sul retro della stazione di Modena. Avevo un Jeroboam, una grande bottiglia di sfumante, perché andavo a una festa a Ginevra, ho 60 anni. E il viaggio è stato piacevolissimo perché si è presentato questa persona abbastanza giovane, un quarantenne, quarantenne, un tecnico della Ferrari. Con la Ferrari era? Con una Ferrari? No, magari. No, era lei aveva lo champagne, lui aveva la Ferrari. Ma il bello è che nel bagagliaio, siccome lui ha caricato oltre me altre persone, tutte portavano degli alcolici, quindi sembrava una macchina di avvinazzati, che in effetti, insomma, ognuno poi portava qualcosa. E qui come è andata a finire? La festa c'è stata? Ma la festa ci sono andata io da sola, non lui. Quindi vabbè, è stato divertente. È stato molto divertente, molto piacevole, proprio anche perché da Modena a Ginevra eravamo l'autista più 3 persone, tutte persone molto piacevoli, una conversazione, il viaggio è volato. È come trovare degli sconosciuti in treno che accettano di chiacchierare, certo che vola. Se uno viaggia con la nonna, con la zia e con la suocera, fa finta di nulla e guarda nel vuoto. Viaggia con persone nuove. Anche da chi si trova, insomma, devo dire sono stata fortunata. Lei era capitata fortunata. Bene, scusa, ha trovato uno, c'ha 20 anni meno di lei, ingegnere della Ferrari. Cioè, che vuole più dalla vita? Esatto. Tutti vorremmo una cosa del genere. Esatto. Vabbè. Infatti ho chiamato per questo. Grazie Cristina. Allora, Doriana, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, no, volevo portare la mia testimonianza, solo non diretta, ma dei figli, ho 2 figli universitari, hanno usato BlaBlaCar da Bologna-Ancona e si trovano molto meglio del treno, molto più puliti, molto più sicuri e molto più puntuali. C'è qualcuno che dice con malizia, dice BlaBlaCar è il nuovo Tinder. Tinder è un sistema di messaggeria, lei sa cos'è? No, noi eravamo molto contrari perché dice ma che persone sono, ma i suoi figli sono maschi o femmine, tanto per un capire. Maschio e una femmina, la femmina più grande e la femmina la figliola la manda da sola. Ha iniziato lei a aprire la strada anche al fratello più piccolo. La pristrada è stata la femmina. sì, è trovata bene. Bisogna informarsi bene, leggere bene tutti i feedback, tutte queste storie qua. Che noi eravamo proprio all'oscuro. Ma glieli controlla lei prima e feedback alla figlia? No, mi ha fatto vedere un pochino, sì, come funzionava, quindi qualcuno mette la foto, qualcuno mette l'età, eccetera, andando proprio nello specifico, alcuni sono proprio dettagliati. E poi capita, infatti a mia figlia è capitato, di chiedere il passaggio poi a persone che già le avevano dato il passaggio, perché si erano trovati bene reciprocamente. Poi faceva amicizia anche con altri studenti, con altre persone che facevano lo stesso. Insomma, è anche una condivisione. Io continuo a arrivare a SMS, non so se gli SMS selezionano un pubblico particolarmente malizioso. Insistono sul fatto, dice, soprattutto i vecchi sono animali. Tocca scendere subito, dice, ma dicono, se avete esperienze negative di carpooling ditemelo, o di car sharing, al momento sono tutti contenti e felici. Doriana, grazie. Eric, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io faccio sempre su BlaBlaCar, sono ambasciatore dal 2012, ne faccio una marea sia di passeggero che di guidatore. Come guidatore anzi faccio la prenotazione automatico, non guardo neanche i feedback, mai niente di negativo, invece come passeggero più di una volta negativo. E di che tipo? Quali sono gli inconvenienti? Gli errori sono che la gente mette tipo 3 posti disponibili, 2 persone nel sedile posteriore, tu arrivi, ti sei fatto magari il treno per arrivare all'appuntamento, ti trovi la Clio con 3 persone dietro. Poi glielo dici, la tipa ti dice, a me è successo 2 volte, una ragazza mi dice ma ho dimenticato, vabbè, ti beccano in castagna, adesso... però alla fine BlaBlaCar non, in quel caso lì non ha fatto niente, comunque non mi ha rimborsato ed era un viaggio di 7 euro su una Clio a 34 gradi. cioè solo per dire questo. Ma lei può mettere un feedback negativo però su questa cosa qua, no? Alla sì, persona. Posso mettere un feedback negativo, ma c'è tanta gente anche che fa le prenotazioni a nome di altri amici. Anche a me mi è successo parecchie volte che i passeggeri non sono quelli che hanno fatto la prenotazione, ma la suocera, l'amico, così. Poi rifanno un altro conto, capito? Sì, però c'è da dire una cosa, Eric. Vediamo se riusciamo a dare qualche consiglio concreto. Se uno accetta di fare questo tipo, di entrare in questo, deve stare attento, deve guardare bene, deve osservare, se poi c'è la scorrettezza. Sì, ma guardare bene anche il fatto, io quando faccio la prenotazione automatica, magari due giorni prima di partire metto il viaggio, allora se vuoi avere gente comunque devi prendere... Però come passeggeri in prenotazione automatica, i miei passeggeri, che gente magari, cioè, magari brutto dirlo, non so... che non hanno buoni feedback, che magari sono gente di colore, così e tutto. A me non mi interessano, non ho mai avuto vabbè, problemi. Gente di colore che c'entra? ma tanti non li vogliono, eh. Ah sì, cioè, qualcuno scrive non voglio... Perché l'estate non c'è odore, non lo so. Queste sono scelte, certo. Se la persona ha l'odore pesante non lo vuole, ma può dire a priori non voglio. Allora, Roberto mi sembra c'è. Roberto. Sì, ciao Gianluca. Ecco. Volevo raccontarti la mia esperienza di un viaggio a Cuba, dove praticamente avevamo noleggiato una macchina e girando appunto per le strade così, la gente addirittura aspettava gli incroci delle strade, senza dover, cioè non esisteva chiaramente applicazioni o che altro, aspettavano, tu arrivavi ad un incrocio, praticamente magari avevi dato un passaggio ad una persona precedente, arrivavi, ti fermavi con la macchina e quello che scendeva al portiere, subito uno entrava e ti diceva portami la... c'era diciamo il pulmino spontaneo, nel senso tu eri una macchina, volendo potevi caricare e scaricare persone. Vabbè, queste... esatto, sono sistemi arcaici, oggi stiamo cercando di trasportare il sistema alla condivisione anche nel mondo concreto, e questa mattina abbiamo capito che molto usata e molto frequentata anche alle nostre latitudini. Alla prossima, grazie.